e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e tanti baci. Deborah, ci baciamo? Baciamoci, guarda. Mettiamo anche la foto? Un bacio appassionato? Tipo quello tra Madonna e l'altra cantante americana che adesso mi sfugge, la giovanissima, sai quel bacio? Faremo le prove, perché oggi è il giorno. È il giorno mondiale planetario del bacio. Tra l'altro arriva proprio questa giornata, è stata inventata e promossa proprio in Gran Bretagna. Ecco. E quindi baciamoci, esatto. Facciamolo più spesso, perché tra l'altro non solo perché il bacio così è un gesto che trasmette affetto, stima, amore, passione, ma anche perché secondo la scienza ci fa bene. È vero. Ha un sacco di vantaggi, puoi provare per credere. Esatto, scegliamo anche l'interlocutore giusto per questo gesto, possibilmente, certo. Oppure vale un bacio vale l'altro. Allora, io cioè, ti devo conta dire, quello appassionato, modello Romeo e Giulietta, oppure secondo anche me in fronte, sulla guancia, è sufficiente? Certo che se c'è uno scambio, è un po' meglio. Anche il sistema immunitario sembra che si ringalluzzisca un po'. Comunque, in un bacio alla francese di 10 secondi ti passi circa, ho letto su Focus, 80.000 batteri, per cui milioni scusami di batteri. Insomma, sai che si dice chi si somiglia si piglia, ecco. In realtà chi si bacia si assomiglia. Ma pensa un po', questa è la notizia che ha colpito te, invece a me ne ha colpito un'altra molto e più, cioè che no, seria. Guarda, allora ti dico già che questo signore qua noi lo dobbiamo invitare a Cuore Denari, perché è proprio l'uomo che fa per noi. Dai. Si chiama, è uno che probabilmente non conosce nessuno, si chiama Pippo Baudo, ha 80 anni e condurrà Domenica In per l'ennesima stagione. Fantastico. Guarda, ti dico che stamattina il grande Pippo. Sì, mi perché piace per molto. Me è un monumento assolutamente, per cui noi lo salutiamo con affetto nella speranza che Cuore Denari sia gli il lanciamo suo gradimento. Tanti baci e un invito. Benissimo. E adesso invece andiamo alle amene notizie finanziarie della giornata. Allora, vi segnalo subito cosa propone oggi il menù dell'inserto Brexit, l'estate dell'incertezza sul Sole 24 Ore. Il numero di oggi si concentra sulle caratteristiche della crisi attuale confrontate con quelle che invece hanno caratterizzato la crisi seguita che ha seguito la bancarotta di Lehman Brothers nel 2008. Nel numero di oggi si parla di politiche monetarie e di cosa possono ancora fare le banche centrali internazionali per arginare gli effetti di Brexit, e cosa possono fare i governi usando l'arma dei loro bilanci pubblici, e poi c'è anche un interessante focus su cosa potrebbe cambiare per chi chiede di entrare nel Regno Unito anche solo banalmente per viaggiare e le possibili ulteriori formalità per i documenti da presentare. Un po' ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, oggi appunto un pezzo delle Sole ci ritorna su questo argomento, perché in futuro potrebbero riaffacciarsi i visti e anche novità per le patenti di guida, per cui attenzione a questi scenari indicati dal Sole 24 Ore. Lo ribadiamo, sono ancora scenari, visto che non è ancora neanche partita ufficialmente la procedura per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, però insomma vale la pena seguire questo percorso del Sole 24 Ore. Allora, la borsa oggi abbiamo un quadro negativo anche stamattina, è anche abbastanza significativo perché c'è Parigi che scende dell'1,30%, Francoforte perde l'1,20%, Milano meno 1,23%, e tu guarda cosa succede a Londra che invece è positiva dello 0,06%. E paradossalmente stamattina abbiamo un nuovo ribasso importante per la sterlina, che continua a testare nuovi minimi da 31 anni a questa parte. E siccome gran parte delle società quotate sulle FTSE 100, che è il principale paniere inglese, sono società che fatturano in gran parte all'estero, stanno paradossalmente beneficiando di questa svalutazione competitiva della loro moneta, e di conseguenza la borsa è positiva. Ecco il paradosso del referendum appunto inglese. Tutte penalizzate le borse europee, l'unica che vince è Londra. Milano, naturalmente aspettavamo l'apertura di stamattina di Monte dei Paschi, il titolo riesce a respirare un po', più 10 punti dopo aver bruciato, è andata letteralmente KO il 30% in due sedute. Oggi il titolo tenta di recuperare almeno i 30 centesimi, più 10,20%. Si fanno molte ipotesi sui giornali in questi giorni di un possibile aumento di capitale che abbia la garanzia appunto dello Stato, tante le ipotesi in campo sulle quali forse neanche vale la pena soffermarsi. Di fatto oggi appunto il titolo recupera un po' e porta con sé anche Pop Milano più 2%, Ubibanca più 0,9%, Unicredit più 0,7%, a due anni invece non è nel settore bancario, guadagna lo 0,51%. E poi segnaliamo anche Yux Net-a-Porter in rialzo di 2 punti. Questo gruppo leader nel commercio online, in particolar modo nel settore della moda, ma si sta anche lanciando nel settore dei beni di lusso a più ampio raggio, proprio stamattina ha presentato il suo piano industriale al 2020 ed è piaciuto molto al mercato, il titolo ne ha beneficiato. Chi invece non va tanto bene stamattina è Telecom, non va tanto bene, è un eufemismo perché perde il 7%, poi abbiamo un calo di 6 punti di Azimut, meno 4 per STM e abbiamo un ribasso di 3,5 punti anche per Finecobank, Buzzi Unicem e Fiat Chrysler. Segnalo anche quello che è successo stamattina in Asia, dove c'è stato un record storico negativo per i tassi dei titoli di Stato giapponesi a 20 anni, che appunto per la prima volta nella storia sono scesi in territorio negativo. Gli acquisti sul debito sovrano giapponesi sono naturalmente rafforzati dalle incertezze legate alla Brexit. Allora, poi ti racconto, prima del nostro piccolo focus di stamattina, Nicoletta, cosa è successo ieri a Roma, perché interessa anche il cuore questa notizia. Ieri c'è stata l'assemblea dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione. Allora, voi pensate che il ramo vita raccoglie il 14% dei risparmi degli italiani, ma ieri è stato anche segnalato che nel corso del 2015 ogni famiglia italiana ha speso circa 1.400 euro di tasca propria per affrontare le spese sanitarie personali. Certo. E quindi, siccome ho pensato che fosse proprio un taglio che va bene per noi, abbiamo pensato di invitare per la prossima settimana, verrà da noi la presidente dell'ANIA, brava, Bianca Maria Farina, che verrà, è una donna molto in gamba, non so se rimarrà a Roma oppure magari fa un blitz a Roma, dai, Milano, e quindi avremo l'occasione di approfondire questo tema che sta particolarmente a cuore alle famiglie. Esatto, lasceremo da parte tutto il tema dell'auto e tutte queste cose qua delle quali parliamo molto spesso, per cui tema assicurazioni, risparmio degli italiani e spese sanitarie, quindi un po' i temi proprio di cuore e denari. Allora, se gli scaffali del supermercato potessero parlare, Nicoletta, chissà meno che cosa racconterebbero. Ma cosa direbbe il tuo? Non voglio pensarci. No, dai, raccontaci qualcosa delle abitudini di consumo della tua famiglia, tua persona. Allora, sai, a noi piace fare la spesa, andiamo di solito in gruppetto, perché quindi il carrello lievita, comunque facciamo molta attenzione, leggiamo le etichette, quindi io mi porto sempre i miei occhialini, che al momento buono non trovo, quindi la lista degli ingredienti e poi naturalmente anche le offerte, perché tu mi insegni, no? Siamo donne di cuore, ma anche di denari, attenti alla salute, ma anche al portafoglio. Gli scaffali del supermercato raccontano tanto di noi e questo lo hanno ben compreso appunto gli uomini del mondo cooperativo della Coop, che hanno ben pensato di partire con un'iniziativa molto interessante che viene lanciata ufficialmente domani, ma oggi ce ne regalano i contenuti in anteprima. Da domani sarà online italiani.coop, numeri, dati e tendenze dell'Italia che cambia, un progetto che leggiamo proprio nel comunicato appunto dell'iniziativa, costituisce la naturale evoluzione del rapporto Coop giunto alla sua 10ª edizione. Albino Russo, direttore dell'ufficio studi Coop, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, allora, grazie. Ho fatto un po' delle anticipazioni, abbiamo detto in maniera folcloristica, se gli scaffali del supermercato potessero parlare chissà cosa racconterebbero di noi. C'è poco da scherzare, perché raccontano invece moltissimo, proprio da questa consapevolezza appunto voi vi siete mossi, dottor Russo, per istituzionalizzare il vostro rapporto che esce ogni anno e racconta tanto delle abitudini di consumo degli italiani, non solo delle abitudini di spesa, ma è un'indagine anche di carattere qualitativo oltre che quantitativo. Perché avete voluto rafforzare questo rapporto con l'iniziativa anche online? Perché se è vero che il cibo racconta molto di come sono fatti gli italiani, è qualcosa che fa parte dell'identità profonda del paese. Noi vogliamo andare oltre e raccontare tutto quanto c'è attorno al mondo del consumo e che cosa viene prima del consumo, quindi come sono fatte le famiglie, quello in cui credono, quello a cui aspirano, quello che immaginano per il loro futuro. Certo. L'idea di raccontare quindi un paese che sta cambiando molto di più di quanto di 0, delle cifre della macroeconomia raccontano, di un paese che ha soprattutto molta voglia di cambiare e che oggi è in piena metamorfosi. L'idea di raccontare attraverso dati, fatti e tendenze quella parte del paese, della vita quotidiana degli italiani che spesso non ha un rilievo mediatico, e quindi un progetto di ricerca ma anche di comunicazione che vuole essere di servizio e promuovere una riflessione sul cambiamento del paese, ma soprattutto degli italiani. Come sarà strutturato, Russo, il portale? Come funzionerà? Ci saranno anche delle informazioni utili e fruibili direttamente per il consumatore? Certamente sì, è un portale, un sito di servizio per tutti quanti vogliono approfondire che cosa sta succedendo all'Italia, agli italiani di oggi. Avremo informazioni che riguardano naturalmente il cibo, naturalmente i consumi, ma anche l'evoluzione delle famiglie e le prospettive future. Saranno disponibili infografiche, dati interattivi, approfondimenti economici ma anche di costume. Domani presenteremo il primo degli speciali di italiani.com che si chiamerà Un secolo di italiani e racconterà come siamo cambiati dall'inizio del Novecento ad oggi, un po' per trovare consapevolezza di quanto di buono questo paese ha fatto e di quanto gli italiani siano riusciti ad affrancarsi dalle condizioni di profondo disagio che vivevano all'inizio del secolo scorso, ma anche per tracciare diciamo una storia e proiettarci in quella che è la contemporaneità del paese e in quella che può essere un, ci auspichiamo tutti, positivo futuro. Benissimo, dottor Russo, allora tutto questo sarà accessibile da domani sul nuovo portale che si chiama www.italiani.coop. Grazie per essere stato con noi, per e averci dato questa iniziativa grazie in anteprima. Grazie a voi e buon lavoro. Noi andremo a caccia di notizie da approfondire poi per Cuore e Denari, perché ovviamente tutto il andremo mondo in mezzo agli scaffali. Esatto, buona giornata e buon lavoro per domani e buona spesa. Ecco, esatto, che ci piace molto fare, io mi diverto comunque nel supermercato e non so cosa dirti, cioè, c'è qualcuno che non sopporta di stare lì dentro, a me invece io rilassa. Mi diverto un po' meno io quando sì. mi tocca portare sì, i pacchi ecco, a casa esatto. e pagare il conto, ma comunque però anch'io mi diverto. Bene, adesso guarda, allora, guarda che puntualità, ma questa mattina mia. Svizzera direi. Infatti Filippo sono commossa. Ci bacia, guarda, Filippo, là. Guardalo, traffico. Guarda quanti baci. Fai partire il traffico, non distrarti, vai. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Cuore e Denari. Sono il dottor Ian Gray. Sono un padre, un marito e anche uno scienziato. Da piccolo capii che la macchina fotografica è strutturata esattamente come l'occhio umano. Le immagini prendono forma dalla luce che entra attraverso la lente. Vorrei raccontarvi la storia degli occhi che hanno cambiato il mio mondo. Ricordatevi questi occhi. E questo breve estratto ci porta alla prima notizia della nostra rassegna stampa di salute. Parliamo di un microchip che, impiantato all'interno dell'occhio, permette di ripristinare la percezione della luce e delle forme di oggetti e persone circostanti a chi, durante l'età adulta, ha perso la vista a causa di alcune gravi malattie ereditarie, come la retinite pigmentosa. In linea con noi il professor Francesco Bandello, che al San Raffaele di Milano dirige il Centro di Riferimento Nazionale e Internazionale per la cura delle malattie retiniche, che sarà tra l'altro il primo centro italiano a impiantare questo nuovo dispositivo. Buongiorno professor Bandello, bentornato. Buongiorno Nicoletta. Allora, entriamo subito dentro la notizia, professore. La notizia è che da partire dalle prossime settimane, non appena sarà stato possibile individuare il paziente ideale per fare questo tipo di chirurgia, sarà possibile ridare una funzione visiva sicuramente primordiale, non una funzione visiva considerata come quella che abitualmente consideriamo, a una persona che purtroppo l'ha perduta a causa probabilmente di una malattia grave e devastante come la retinopatia pigmentosa. Tengo a dire, perché temo poi di dimenticarlo, invece ci tengo a dirlo, a ricordarlo, che questo intervento è reso possibile da un contributo finanziario che è venuto da Mediolanum, da Ennio Doris e dalla sua banca Mediolanum, che si è resa disponibile a finanziare questa iniziativa e siamo tutti grati, noi certo. e anche sicuramente i pazienti per questa disponibilità. Vedi, questa è una notizia a cuore denari. Assolutamente. No, professore, torniamo quindi al nostro microchip, che viene impiantato esattamente dove? All'interno dell'occhio, vicino alla retina? Viene impiantato al di sotto della retina. Questa, diciamo, è la prerogativa, la peculiarità di questo tipo di microchip, che viene impiantato al di sotto del piano retinico, nella sede in cui abitualmente sono presenti i fotorecettori retinici. Questo microchip ha poi la caratteristica di trasmettere l'impulso visivo fino a livello della corteccia occipitale, dove abitualmente il fenomeno della visione si realizza. Questo tipo di organizzazione comporta una chirurgia particolarmente complicata. Immaginiamo. Si pensi, sì, che l'intervento dura 6-7 ore, quindi è una roba di particolare impegno dal punto di vista tecnico. Però a fronte di questo impegno enorme c'è questo vantaggio di ripristinare una condizione che tenta di ripetere la fisiologia della visione. Questo lo rende differente rispetto a un altro tipo di soluzione che oggi è anche disponibile e di cui già qualche intervento è stato fatto in Italia, che prevede invece di impiantare un microchip al di sopra del piano retinico, utilizzando poi dei supporti esterni, telecamere, occhiali. Sugli occhiali, che è quella. Ecco, adesso è inutile stare a discutere quale sia meglio dell'altra. L'importante è che ci siano queste opzioni. Bravissima, che ci siano queste soluzioni che cominciano a prendere piede. Noi ci auguriamo che quella che abbiamo scelto non fosse altro che per il fatto che l'abbiamo scelta sia, certo, quella che dà maggiori risultati, ma insomma l'importante è che ci sia la possibilità di ripristinare una qualche forma di funzione visiva negli occhi di persone che non ne possono più avere da tempo. Ecco, naturalmente lei ha sottolineato che è molto importante la selezione del paziente, una selezione accuratissima, perché notizie come queste naturalmente accendono molte speranze ma possono generare grandi frustrazioni. Professore, concludendo, per chi volesse valutare l'eventuale possibilità ad effettuare l'intervento, che cosa suggerisce, che cosa proponete? Di mettersi in contatto con noi, c'è un sito all'uopo creato, si chiama Retina Artificiale, che è un sito all'interno del quale si possono inviare le richieste indicando quali sono le caratteristiche della propria condizione, poi ci si mette in contatto con il paziente, certo, si cerca di valutarne per poi individuare il paziente ideale, come si diceva prima. Uno dei rischi, dico sempre, in questi casi è di sensibilizzare tantissime persone, poi purtroppo di queste tantissime persone solo una o due, speriamo tre, non lo sappiamo, arriveranno a fare la chirurgia. Noi vorremmo che non si illudessero tante persone, ecco, assolutamente solo pochi potranno essere selezionati. Grazie professor Bandello, grazie per essere stato con noi. No, servizio che fate, grazie. Grazie. Si chiama tecnica Ozaki, dal nome del cardiochirurgo giapponese che l'ha inventata. È una procedura che permette di sostituire la valvola aortica utilizzando al posto della protesi il tessuto del paziente. Ne parliamo col professor Gianluca Polvani, direttore dell'unità di cardiologia al Centro Cardiologico Monzino di Milano, dove si inaugura, pensate, la scuola europea di specializzazione di questa tecnica. Buongiorno professore. Buongiorno dottoressa. Torneremo sicuramente su questo tema molto interessante, ma volevamo intanto aggiornare rapidamente i nostri ascoltatori. Questa tecnica rappresenta indubbiamente un'innovazione nell'ambito delle sostituzioni valvolari. Ci vuole spiegare in che cosa consiste? Sì, la tecnica consiste nell'utilizzare il pericardio stesso del paziente per costruire una nuova valvola e sostituire quindi la valvola aortica malata. Si prende il pericardio, con una metodica apposta si costruiscono 3 nuovi lembi e li si cuce sull'anello del ricevente. Perché il pericardio? Che cos'è il pericardio? Il pericardio è il sacco che avvolge il cuore, è fatto nella parte che lo avvolge da un tessuto perfettamente liscio, quindi ideale per la costruzione di una valvola, ed è molto resistente agli stress meccanici. Cosa vuol dire? Se facciamo l'esempio che in un giorno una valvola aortica si apre e si chiude 100.000 volte, il tessuto deve essere resistente e il pericardio lo è. Professore, quali sono i vantaggi che si ottengono utilizzando il tessuto del paziente al posto di una protesi valvolare? È appunto una sostituzione autologa con tessuto proprio. Quindi il movimento di questi lembi che si sono costruiti, nel movimento si intende l'apertura e la chiusura all'interno della radice aortica, è uguale a quello della valvola aortica nativa. Sì. Quindi dal punto di vista emodinamico è eccellente. Essendo tessuto autologo non c'è risposta immunitaria, certo. La risposta immunitaria sa che può essere causa di calcificazione. non prevede l'uso, una volta impiantata, né di farmaci anticoaguranti né di farmaci antiaggreganti. Ha una buona, alta resistenza alle infezioni e viene utilizzato molto in ambito pediatrico, perché così non si impianta qualcosa che il ragazzino potrebbe riconoscere come estraneo e determinare quindi una risposta immunitaria, essendo proprio non succede. E poi dal punto di vista tecnico, se vuole, essendo qualcosa che viene cucita sull'anello del ricevente, questo mantiene la propria elasticità e permette di durare quindi nel tempo la valvola stessa. Professore, è magnifico. Guardo Deborah ascolto, è rapidissima. Rapita. Questa nuova tecnica, professore, abbiamo proprio solamente 20 secondi, soppianterà nel tempo le protesi o sarà un'alternativa, in questo caso magari per quale tipo di pazienti? Ma abbiamo proprio alternativa o... Potrebbe essere un'alternativa interessante in un futuro, sì. Allora, torneremo su questo tema insieme al professor Polvani, che ringraziamo per essere stato con noi, a cui facciamo i complimenti e ci sentiamo presto. Noi andiamo a sentire che cosa ci racconta il nostro GR e torniamo subito dopo insieme per affrontare un tema direi rinfrescante, Deborah. Lo speriamo, quantomeno speriamo che non sia tanto caliente l'estate che ci aspetta, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Allora, da domani fino a venerdì io e Nicoletta saremo al Festival Luci sul Lavoro di Montepulciano. E voi direte, perché vi racconto questa cosa? Quindi state freschi anche voi. Sì, allora saremo nella Fortezza da Basso, che è bella freschina, effettivamente si sta bene. Ma soprattutto oggi raggiungeremo la bella località in auto. Io già stamattina ho fatto le prove tecniche di aria condizionata, perché sarò la conducente di questo viaggio e porto con me Nicoletta, per cui ve la tengo al fresco. E io manovro, è state un po' tranquilli. Di più, un po' di meno, ecco. Mi arriva lo spiffero. Esatto, che sì, no, anche io non la sopporto tanto in auto, deve essere veramente giusta, il minimo indispensabile, perché siamo veramente noiosissime. Ma meno siamo male due lucertole, che ce la cantiamo e la suoniamo. Allora, a parte quella dell'auto, molti avranno invece già pensato che potrebbe essere l'anno giusto per regalarsi un condizionatore per la propria abitazione. Siete tra questi? Quanto siete disposti a spendere, visto che naturalmente è un acquisto anche impegnativo? Verso che tipo di acquisto siete orientati? E se invece un condizionatore ce l'avete già in casa, vi state occupando per bene anche della sua manutenzione, avete già fatto delle accensioni, le temperature nella vostra città hanno già raggiunto un numero di gradi tale da richiedere appunto una rinfrescatina alla propria abitazione, avete pulito i filtri, quanto la tenete accesa l'aria condizionata, a che temperatura? Insomma, tante domande a cui dare risposta, è il momento giusto della stagione. Buongiorno e grazie per essere con noi all'ingegner Walter Pennati, consulente tecnico di Assoclima. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Allora, 800 24 00 24, numero verde per le domande dei nostri ascoltatori. Allora, ingegner Pennati, ormai abbiamo acceso probabilmente qualcuno. Io ho fatto delle prove di accensione, ma ancora per tante ore non l'ho tenuto acceso. Però, per chi già invece accende per diverse ore nel corso della giornata, quali sono le procedure di controllo che bisognerebbe fare ad inizio estate? Così lo raccontiamo, lo spieghiamo bene agli ascoltatori più distratti che non hanno fatto nulla e così hanno ancora tempo per rimediare. Ma intanto, come ha già detto lei, bisogna controllare la pulizia dei filtri. E questo lo può fare chiunque, cioè non occorre chiamare un manutentore. Poi bisognerebbe vedere se per caso c'è stata una perdita di gas. Come si vede? Lo vediamo controllando la temperatura di entrata e quella di uscita, anche con una semplice mano. Di solito ci sono una decina di gradi di differenza. Se fra l'aria in ingresso e l'aria in uscita, diciamo dopo 5-10 minuti che l'apparecchiatura funziona, si sente una differenza sensibile di temperatura, allora la macchina è al posto. Altrimenti è probabile che sia stata persa una minima, anche minima quantità di gas, allora occorre chiamare. E quindi anche questo check lo possiamo fare noi. Bello. Questa io non la sapevo, guardi, no. Devo dare una bacchettata agli ospiti che abbiamo interpellato gli anni passati. Quindi si sente l'aria dentro e si sente l'aria fuori, deve esserci una bella differenza. Ottimo. Io ho capito così. Mi scusi, non dentro fuori, parlo all'ingresso del condizionatore e all'uscita del... Ci sono bocchette d'ingresso e bocchette di uscita. Quindi aria, temperatura e condizione naturalmente dei filtri. Dalla scorsa estate, ingegner Pennati, il nostro condizionatore deve esibire le sue referenze, cioè il suo libretto di impianto. Allora, ci ricorda quali sono le nuove regole? Dobbiamo avere tutti a casa questo documento o solo chi ha installato un condizionatore da poco, appunto da un anno a questa parte? No, la legge lo prevede per tutti. Quindi o abbiamo l'impianto di riscaldamento centralizzato, ci siamo comprati il nostro climatizzatore individuale e l'installatore, parlo di impianti fissi, e l'installatore dovrebbe averci rilasciato il libretto con tutti i dati, oppure abbiamo un impianto di riscaldamento individuale e quindi sullo stesso libretto dell'impianto di riscaldamento vanno messi i dati del condizionatore. Del climatizzatore. L'installatore poi dovrebbe trasmettere al catasto regionale tutti questi dati. Certo. E quindi... Questo eccetto in quelle regioni come la Lombardia che hanno deliberato in maniera diversa. Ah bene, come? Dire, in Lombardia è obbligatorio il libretto soltanto dai 12 kW in su. Ah, e quindi che cosa significa? Che dimensioni deve avere questo impianto? Diciamo un impianto casalingo arriva a 7-8 kW massimo. Però insomma magari è bene che un tecnico ci dia un'occhiatina al climatizzatore che abbiamo installato. Adesso per dirci trovarli è per difficile, perché adesso, sono straimpegnati, un manutentore, come giustamente l'ha definito. Bruciatoristi. Ecco, io chiamo l'omino dell'aria condizionata, e di solito vengono umoni, però adesso sono un po' difficile perché sono impegnati, perché ci accorgiamo questo è il momento. È come quelli che devono fare il cambio delle gomme, siccome io mi sono accorta praticamente 2 giorni fa che ancora non l'ho fatto nell'auto, parliamoci chiaro, però la uso noi poco predichiamo per andare bene, razzoliamo male, quindi confesso candidamente anche questo, però insomma l'auto è nuova, non abbiamo grossi problemi. Detto questo, adesso per prendere appuntamento ho ovviamente i miei problemi. Ingegner Pennati, un'altra novità recente in materia di condizionatori è quella che prevede per installatori e manutentori la certificazione di qualità. Lo ha stabilito una direttiva europea e aveva fatto balzare un po' sulla sedia proprio i professionisti in Italia. Ci ricorda di che cosa si tratta, cosa deve controllare il consumatore? Questa norma, perché questo era un po' il pericolo quando abbiamo parlato dell'introduzione di questa novità, ha pesato sui costi che ricadono sul cliente? Dunque, si tratta questa certificazione del fatto che chi gli mette le mani sull'impianto frigorifero deve essere consapevole di quello che fa anche non solo nei confronti della macchina, ma anche nei confronti dell'ambiente. Quindi il tecnico, sia lui installatore o manutentore, deve aver fatto un corso e deve aver sostenuto degli esami da parte di un ente accreditato. Il consumatore deve solo controllare che il tecnico che esce, che mette le mani sul circuito frigorifero, non su altro. Che abbia questa pagella praticamente, questa patente. Che il manutentore sia iscritto in un apposito albo e anche l'azienda del manutentore deve essere certificata sempre nell'apposito albo. Da quello che risulta la vostra associazione, ingegner Pennati, insomma lo hanno fatto tutti i manutentori. Non so se l'hanno fatto i 30.000 manutentori italiani, ecco. Ma diciamo una buona parte sì. Sono ancora in tempo insomma a mettersi in regola anche con la direttiva europea. 30.000 manutentori in Italia abbiamo che possono controllare sia la caldaia in inverno che il condizionatore per l'estate, ingegner Pennati? 30.000? abbastanza plausibile. Allora, 800 24 00 24, se volete potete intervenire in diretta a farci delle domande sul condizionatore, il climatizzatore dei vostri sogni. Avete già pensato di installarlo a casa vostra? State in questo momento meditando su quale stanza potrà essere quella ideale? Perché adesso andremo anche proprio sul tema tecnico dell'installazione. Chi abbiamo, Nicoletta? Allora, WhatsApp ci scrive Antonella, che ha pulito i filtri ieri, secondo le istruzioni, però lei ha usato finora la versione deumidificatore e funziona molto bene, quindi ha preferito questa versione. Mentre un altro ascoltatore ci scrive, ma se io non ho il libretto, ho comprato la casa, il condizionatore c'è già, che cosa posso fare? Ingegner Pennati, allora possiamo resettare la situazione se, se la persona che ci ha venduto la casa non ci ha consegnato il documento del condizionatore, possiamo chiamare un manutentore e rifarlo da zero? Ci può lui descrivere tutte le caratteristiche dell'impianto e quindi resettiamo, come dicevo, la situazione? Esatto. Quindi questo possiamo farlo. Per quello che riguarda invece il tipo di pulizia che ha fatto l'ascoltatrice sul deumidificatore, abbiamo qualcosa da aggiungere? No, l'unica, diciamo così, bisogna pulire i filtri si puliscono semplicemente mettendoli sotto l'acqua corrente. Ecco, diciamo che ci sono alcuni tipi di climatizzatori, in particolare gli iWall, che oltre ad avere il solito filtro a rete o diciamo in materiale plastico, ha anche dei filtri a carboni attivi o elettrostatici passivi oppure a biossido di titanio. E quindi vanno puliti facendo un po' di attenzione. Quelli a carbone mi interessano in modo particolare, sono il mio pane, dottor Pennati. Ecco, quali carboni attivi ed elettrostatici passivi si esauriscono e quindi vanno sostituiti. Vedi. Ah, questi vanno attenzione proprio sostituiti, non puliti. Vedi che io mi esaurisco, attenzione. Allora, andiamo a dare una mano, un orientamento a chi si mette al lavoro ora per capire qual è il miglior impianto da mettere in casa propria. Quali sono i primi requisiti della casa che dobbiamo valutare, ingegner Pennati? Ma a dire la verità non c'è il miglior impianto. Bisogna studiare la casa e studiare l'impianto che si adatta meglio a questa casa. Per esempio, quasi tutti dimenticano che quando si fa freddo, quando si raffredda l'aria, questo produce della condensa. Ora è chiaro che quando metto un impianto fisso devo anche trovare la via per far uscire questa condensa, per smaltirla. Quindi ci deve essere uno sbocco verso l'esterno oppure anche verso l'interno, ma con una bacinella di raccolta? Verso l'interno, però devo trovare una parete vicino al bagno o vicino alla cucina dove ci sono già i tubi di deflusso dell'acqua di smaltimento. È chiaro, le case nuove hanno già gli impianti predisposti, ma quelle, diciamo così, vecchiotte, può darsi di no, e quindi bisogna stare attento dove mettiamo l'unità interna per evitare di, diciamo così, che la condensa ce la troviamo sul pavimento così. o di dover rompere troppo il muro, di fare delle tracce per metterci i tubi che vanno in un quindi va studiata bene la casa. Certo, e diciamo che un buon tecnico naturalmente in grado di dirci qual è il miglior posizionamento anche proprio per l'impianto, per evitare tutti questi problemi. Le classi energetiche di questi impianti sono un aspetto importante, ingegner Pennati? No, ormai diciamo così tutti gli impianti nuovi sono a ridotto consumo energetico, tutti hanno la loro etichettatura di consumo energetico, quella a bandierine colorate, e quindi diciamo che ormai sono problemi. Ormai sì, non ci sono problemi. Certo, è facile. Volevo ricordare il nostro numero verde, i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo al 349-238-6666, il numero per mandare i messaggi, per WhatsApp, per intervenire in diretta 800-24-0024, per raccontarci anche come vi organizzate per risparmiare anche un po', come vi infatti rinfrescate solamente in alcune ore della giornata, tenete chiuse le finestre. Tra l'altro, ingegner Pennati, per esempio, io qualche volta faccio così, quando proprio il caso caldo di Milano è soffocante, per rinfrescare anche un pochino la camera da letto, prima io ce l'ho anche in camera, però il gelo che arriva direttamente sul letto proprio non lo gradisco, quindi faccio andare quello che sta in cucina e cerco di rinfrescare un po' tutta l'abitazione. Anche nei momenti di temperatura particolarmente elevata, che differenza deve esserci tra la temperatura esterna e quella all'interno dell'abitazione che produciamo noi attivando il climatizzatore? Perché qua c'è chi spara ovviamente all'americana a 15 gradi casa, quando fuori magari ce ne sono 40, e mi risulta che non sia proprio una pratica consigliabile. Ingegner Pennati. Il problema non è la differenza fra interno e esterno, il problema è di mantenere all'interno la giusta temperatura che dà il comfort al nostro corpo. Quindi quando si imposta 26 o 27 gradi, questa è la situazione ideale per la maggior parte delle persone. Quindi non dobbiamo preoccuparci della temperatura esterna, ma solo di quella interna. Senta, i climatizzatori moderni quanto consumano? Perché c'è chi in realtà ha un po' il timore di accenderli frequentemente in estate, perché poi sulla bolletta pesano. Sono così energivori o insomma soldivori? No, in realtà sono molto meno energivori di quello che si pensi. Anche perché uno può pensare a tenere acceso tutto l'anno il condizionatore. Allora, se noi guardiamo sull'etichetta energetica, vediamo delle colonne, sulla destra c'è la colonna della climatizzazione estiva, sulla sinistra, sulla destra c'è quella del riscaldamento in pompa di calore, e ci sono il primo numero sotto le bandierine riguarda la potenza della macchina, sì. Il secondo numero la sua efficienza energetica e l'ultimo numero riguarda il consumo annuo, ma è questo un consumo annuo come se noi lo tenessimo sempre acceso, in realtà siccome lo usiamo poco, due mesi l'anno E quindi è molto meno di quello che danno le etichettature energetiche. Ingegner Pennati, che cos'è la tecnologia inverter legata al climatizzatore? I climatizzatori vecchi, diciamo così, che andavano a velocità fissa, davano sempre la stessa potenza, sia quando era richiesta poca potenza, sia quando era richiesta tanta potenza, con tra l'altro il disturbo di avere questa macchina che si accende e si spegne, la temperatura che scende e sale. Con la tecnologia di inverter invece si regola la velocità del compressore, quindi la potenza erogata, in funzione del fabbisogno del locale. Quindi aumenta o diminuisce la produzione di freddo o di caldo, ma anche aumenta o diminuisce il consumo energetico. E quindi, diciamo così, danno più comfort alle persone e contribuiscono a risparmiare anche i consumi elettrici. Allora, senta, c'è un ascoltatore che ci chiede, Fabio, se potrebbe avere le carte in regola per installarsi da solo un impianto di condizionamento da 7 kW nella sua casa senza necessariamente rivolgersi ad un installatore qualificato. Speriamo che Fabrizio ovviamente abbia anche la passione per la tecnologia in questo senso, perché io ovviamente non mi avventurerei mai, ma se lui ha così la capacità per farlo, secondo lei fino a che punto un privato può spingersi a fare da solo in casa? Intanto È vietato dalla legge, dal regolamento europeo, ed è vietato dal decreto italiano di recepimento di questo. Quindi non può farlo. Ecco, esatto, a meno che Fabrizio non abbia la famosa certificazione di cui parlavamo prima e non sia magari un installatore di altro genere. Allora, ci sono tra l'altro tantissime domande all'800 24 sì, per rispondere a tutti i dubbi. Ah, eccoli, sì, infatti, no, scusami, non mi si era aggiornato il mio programma. Allora vado al volo da Stefano da Como. Stefano, buongiorno. Velocissimo, grazie, vi siete messi in coda proprio negli ultimi secondi della trasmissione. Ok, solo una cosa, premetto che ho tre condizionatori in casa, pompa di calore, inverter. Quanto c'ha caldo, Stefano, a Como non ci risulta che sia proprio l'Africa. Pannelli solari, fotovoltaico, 6 kW, quindi vado gratis quando li uso. Ma la mia domanda tecnica è questa, io principalmente li userei per scaldare, non per raffreddare, però volevo capire come mai quando scaldo mi serve molta più potenza e non ce la faccio comunque a scaldare, invece quando raffreddo mi serve pochissima potenza e raffreddano subito. Cioè io non riesco a capire come mai questo... Per produrre calore è un po' più impegnativa la storia che per produrre appunto refrigerio. Ingegner Pennati, come mai questi impianti funzionano in questo modo? Beh, intanto è il fabbisogno dell'edificio diverso. Mm. Quando prima parlavo che la temperatura da impostare sui 27 gradi, 26 gradi, se vuole anche 25, ma è già troppo. Va bene. Se vuoi essere un lei deve tener conto che all'esterno raramente arriviamo a 35 gradi, per cui c'è una differenza di 10 gradi fra l'interno e l'esterno, e quindi il fabbisogno energetico è relativo. Mentre quando dobbiamo riscaldare... Quando è fuori è molto freddo, ovviamente, per produrre un calore noi adeguato. Casa, lo noi in casa abbiamo più bisogno alto. Di 20 gradi, fuori ce ne sono zero o anche meno, certo. Ragion per cui abbiamo bisogno di molta più non potenza. Non mi fate pensare a quei giorni. No, no, per carità. Godiamoci noi godiamoci queste temperature tropicali che ci piacciono. Velocissimo Fiorenzo, che invece è un manutentore, vuole aggiungere altri consigli per i nostri consumatori all'ascolto. Fiorenzo da Venezia, benvenuto. Voi in quanto voi... ad umidità non vi manca, e quindi... Eccoci. Buongiorno a tutti quanti. No, io volevo aggiungere una cosa su quanto riguarda, intanto sì, ha ragione l'ingegnere, vuole il patentino F-Gas per installare in regola, tutto sì, certo. Sia personale che aziendale, tutto quanto. Mm-hmm. No, volevo dire solo questo, che non è solo sufficiente pulire i filtri del condizionatore. E anche fare il controllo interna. Di aria in uscita ed esterna. Sì, ecco, ci sono dei prodotti che questo qua lo fa normalmente, e questo anche previsto dal libretto impianto, quello con la nuova normativa, che poi è divisa anche per regioni, quindi non è uguale da infatti volevo arrivare. Eccetera. Tanto per fare le cose semplici. Ecco, io consiglierei ad ogni persona che ha il condizionatore di prendersi anche con la pila del telefonino e manualmente aprirsi le alette, quelle sotto lo specchio interno, e guardarsi il ventilatore che c'è sotto. Questo, quello lì, normalmente non lo vede nessuno, non si pulisce, non lo pulisce nessuno, se non le persone qualificate, e lì è un annidamento terribile. Un vivaio di polvere, acari. Ecco. Bene, Fiorenzo. Microorganismi vari. Grazie. Facciamo un aerosol. Se capita a Milano, io e Nicoletta le facciamo controllare questo ventilatore dentro il nostro condizionatore molto volentieri, visto che ha sollevato la questione. Quindi, ingegner Pennati, cosa diciamo a Fiorenzo? Che vuole venire lei? Che è un bravo manutentore. Ha ragione, infatti. Allora, ricorderei un'altra cosa. Noi abbiamo sempre parlato delle unità interne, ma lo dobbiamo controllare anche l'unità esterna, soprattutto nelle zone periferiche o di campagna. Controllare che sulla batteria non si siano accumulate foglie, pioppini, eccetera. Infatti anche della batteria voleva parlare Fiorenzo, ma io l'ho interrotto. Bravo ingegnere, ecco. E quindi? Lì si può lavare con un getto d'acqua. Insomma, c'è da fargli una bella pulizia anche al condizionatore, non riaccenderlo così dopo che per 8 mesi è stato fermo. In realtà lo un me, po' vero? Una no, lo dico pure a me stessa. Bene, abbiamo direi che abbiamo terminato appunto. Però noi continueremo perché, con i temi di cuore. Perché bisogna rispettare tutte le regole, usarlo con buon senso. E poi però l'aria secca, l'aria condizionata secca, e noi adesso. Vediamo un po' il partito. Siete pro, contro, oppure lo usate solamente proprio quando non ne potete fare a meno? 800 24 00 24. Facciamo una sorta di vox populi da cuore denari. Allora, io intanto saluto l'ingegner Pennati di Assoclima per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Che questo periodo è molto impegnativo per voi. A presto. Grazie. Saluto a tutti. Grazie mille. Noi invece adesso andiamo a raccontare di questa giornata di borsa. Che sono caldi, freschi, deumidificati. Una giornata pessima. Rinfrescati. Pessima. Mettetemi il cappello che adesso vi racconto che succede tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Sì, non c'è niente di male nella scienza. Oh. Sai, io preferisco tra l'aria condizionata e il Papa scelgo l'aria condizionata. Allora, adesso che l'aria condizionata per noi non ha quasi più segreti, intanto sono tanti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo per raccontarci e darci i loro suggerimenti. Allora, adesso proviamo a ripassare un po' di regole, chiederemo ai nostri esperti di darci qualche consiglio per goderci il fresco in tutta salute, perché anche l'aria condizionata, lo sappiamo bene, ha i suoi sostenitori, i suoi detrattori, anche se a dirla tutta, quando la colonnina di mercurio mercurio sale, le resistenze spesso si abbassano. Intanto vogliamo salutare il nostro ospite, il dottor Mauro Mocci, medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno. Allora, dottore, c'è chi la ama, chi la detesta, chi l'accetta a torto collo, chi cede ma la teme, quindi la raziona. Lei da che parte sta? Lei che se ne intende? Che... Siamo come al solito nel mezzo, ecco. Cerchiamo di non esagerare. Però, troppo... dottore, per la nostra salute, meglio rinfrescati o un po' accaldati? Allora, distinguiamo, ci sono una tipologia di persone che forse è meglio rinfrescati. E sarebbe, sono, per esempio, no, i malati cronici, i cardiopatici, oppure in determinate situazioni, se siamo alla guida per evitare colpi di sonno o il rallentamento della di essere vigili, oppure al lavoro. Mentre invece io direi meglio un po' accaldati se si soffre per esempio di dolori articolari, di problemi muscolari, oppure se stiamo leggendo un libro o rilassati in casa, non c'è bisogno di arrivare a temperature molto basse. Quindi distinguerei questi due aspetti. Ma entrambi senza esagerare, né troppo caldo né troppo insomma, freddo. Noi in questa seconda parte della trasmissione parliamo dell'utilizzo dell'aria condizionata a casa nostra o in macchina. Tra poco sentiremo anche un nostro ascoltatore che si candida per darci delle indicazioni. Naturalmente basta un po' di buon senso. Nella prima parte della trasmissione il nostro esperto e anche tanti nostri ascoltatori hanno sottolineato l'importanza di pulire i filtri, che possono trasformarsi in un serbatoio di polvere, acari, sostanze irritanti, e questo è soprattutto un pericolo per chi soffre di allergie. Parliamo della macchina e della nostra casa, ma naturalmente, dottor Mocci, il problema è che tutto viene trasformato, sparato nell'ambiente, facciamo un aerosol di sostanze irritanti. Sì, soprattutto poi nei centri dove c'è molto afflusso di gente, oppure treni, sui mezzi pubblici, c'è un po' di tutto. Purtroppo lì la temperatura non siamo noi a sceglierla e spesso le temperature sono molto basse. Io sentivo prima che non ci dovrebbe essere, secondo alcuni, una differenza tra il caldo esterno e il freddo interno. Ecco, purtroppo, infatti l'ho in sentito, realtà... ho detto adesso il dottor Mocci ce le canta, perché no, noi dobbiamo evitare gli sbalzi di temperatura. Esatto. In realtà dobbiamo assolutamente stare attenti, perché se noi siamo all'esterno a 35 gradi, entriamo in questi supermercati che adesso hanno preso il vizio di mettere l'aria condizionata proprio all'ingresso, e lì prendiamo una botta che saranno 20 gradi, il nostro organismo ne risente. Purtroppo basta poco, perché se il muscolo con il caldo si è rilassato, con il freddo va subito in contrattura e provoca i dolori che poi tutti avvertono. E ci sono vari tipi di sintomi che uno riesce a capire che sta soffrendo, e l'aria condizionata dà subito irritazione agli occhi, dà secchezza della gola, dà un po' di tosse, dei dolorini che si sentono, mal di gola, e quelle sono le prime avvisaglie. Ecco. Poi ci vengono in ambulatorio il giorno dopo e dicono: ho preso una botta di aria. Bronchite serie, irritazioni serie, perché basta poco, bastano pochi minuti. Vedi, il lamento del Dutour. Allora, perché poi vengono da noi, si lamentano che hanno, esatto, tutti questi acciacchi, ci dice però il dottor Mocci. Sudacciati, arrivano lì magari. Ma noi con una bacchetta magica, anzi, con una sorta di un po' di una posizione, una pressione, li mettiamo a posto, perché abbiamo proprio pensato il mago della bacchetta magica a chi si è beccato un colpo di aria condizionata proprio sul coppino e adesso, sai, ha quella postura un po' a baccalà, oppure anche abbiamo il dottor, il professor Ernesto Di Pietro in linea con noi. Non ce l'abbiamo ancora, intanto preparatevi, perché avremo l'opportunità di fare tutti i nostri lamenti: o male di qua, è stata l'aria condizionata, forse quella di casa, dell'ufficio, su cui non abbiamo nessuna voce in campo, se non lamentarci, ecco, basta. Il cosa dottor che Mocci quindi ha detto: attenzione agli sbalzi di temperatura, teniamo quindi l'aria condizionata almeno di casa nostra, quanti gradi meno rispetto all'esterno? 5-6 gradi? Non, un po' meno, 3-4 gradi di differenza, però è ovvio non scendere sotto un tot, ecco, 27 gradi vanno bene. Allora, abbiamo anticipato che avremmo sentito i consigli di un nostro ascoltatore che si è candidato, esatto, per occuparsi specificatamente di che cosa. Buongiorno Ugo da Torino. Buongiorno. Intanto il dottor Mocci mi ha già anticipato sul fatto che ci sia differenza limitata tra la temperatura esterna e la temperatura interna. Di conseguenza io mi riferisco all'auto, suggerisco nei viaggi lunghi magari di essere confortati da una temperatura così soggettiva, ma magari anche molto più bassa dell'esterno, però prima di scendere dalla propria vettura, magari negli ultimi 1000 metri, portare la temperatura interna dell'automobile a 2-3 gradi al di sotto di quello che oggi ogni vettura mi indica qual è la temperatura esterna. E poi una cosa che invece non ho sentito prima è il discorso relativo al fatto che l'aria condizionata, se la si tiene anche in uso durante l'inverno, si evita la ricarica periodica perché le guarnizioni non seccano e di conseguenza io d'inverno tengo, qualcuno dice va bene, aumentano i consumi, però non ho la noia della ricarica, il costo della ricarica, anche d'inverno tenere accesa l'aria condizionata mi fa stare meglio come comfort, visto che avrò dell'aria umidificata perché il riscaldamento in vettura durante l'inverno, e in più non si appannano i vetri. Erano queste le due cose che volevo dire. Grazie, dando un contributo. Grazie Ugo, un contributo prezioso. No, hai imparato, perché tu oggi poi mi porti quindi aria condizionata prima di arrivare a Montepulciano, quindi pian piano ti faccio scongelare prima di uscire dalla macchina. Tiriamo magari giù un pochino i finestrini. Ma sappi che io non la accenderò in misura esagerata. Se domani sono senza voce sapete perché. Allora, è tornato con noi, anzi l'abbiamo ripescato, il professor Ernesto Di Pietro. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. È un attimo che l'aria condizionata ti batte sul coppino, Basta essere un po' sudati, come dice il dottor Mocci, entriamo magari al supermercato oppure in ufficio. Ed ecco, allora io ho promesso ai nostri ascoltatori che lei con un colpo di, non posso dire bacchetta magica, ma con una pressione mirata oppure una posizione ci avrebbe dato una mano. Ma assolutamente sì, tenendo sempre conto che se mi sto martellando sul dito è inutile che devo chiedermi come coprire il dito, è meglio smettere di martellare, e intendo, devo trovare sì un rimedio, però usare, come ho sentito dire fino adesso, in modo più normale l'aria condizionata, che dà dei grossi problemi proprio anche perché dà una differenza di umidità, certo, e quindi fa contrarre tutti quelli che sono i tessuti che noi abbiamo, che hanno contenuto d'acqua diverso, li fa contrarre in modo anomalo e danno problemi. Siccome il freddo genera poi questa contrazione continua del muscolo, allora per aiutarci cosa possiamo fare? Prendiamo i nostri polpastrelli. Sì, ci dia solamente tutto quello l'occorrente, che poi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, quindi occorrente. Okay. Una matita e allenate e scaldate i polpastrelli. Allora, polpastrelli, matita e poi siamo subito da voi dopo le informazioni sul traffico. Ci occuperemo anche di un ascoltatore che ci scrive: io che ci lavoro in un centro commerciale, brava, sono costantemente con il torcicollo, tosse, gola, mal di gola sarà, e nonostante le mie lamentele, la direzione, insomma, non ci sente. A tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Cuore e denari. Sì, perché ci sarebbero anche le zanzare. Chissà se alle zanzare dà fastidio l'aria condizionata. Dottor Mocci. Le zanzare dà fastidio all'aria condizionata, con il freddo si muovono poco. Bene. E quindi chi vuole difendersi dalle zanzare può utilizzare questo sistema, ma ovviamente non è il migliore. Allora, ne parleremo. Professor Di Pietro, allora i polpastrelli ci sono, la matita anche, andiamo all'esercizio per alleviare il dolore magari alla cervicale dovuto a un colpo d'aria dell'aria condizionata. Ma certo che sì, fermo restando che un bel foulard di seta sul collo è un buon termoregolatore. E fa anche per chi lavora una certa nel centro scena. Commerciale. Okay. Allora, mettiamo la matita tra i denti, tra i canini, che attraversi la bocca, poi prendiamo i nostri polpastrelli e portiamoli sulla nostra cervicale e andiamo a cercare proprio le ossa, le vertebre cervicali. Eccole qua. Vedi? Professor Di Pietro, le farei vedere Nicoletta in questo momento, guardi tutto un programma con la matita tra la bocca. Una foto io la metterei. Mannaggia, adesso momento, subito mi doto. Arriva Marco adesso allora, col telefono. Okay. Ci sono? Allora, andate sui paravertebrali, cioè di fianco proprio alle vertebre, sì, e massaggiate un pochino e sentite dove ci sono dei piccoli rigonfiamenti delle palline, da lì parte il dolore. Sì. Concentratevi su questa pallina e in modo rotatorio continuate, aumentando sempre un po' di più la pressione, senza mai sentire dolore. Certo. E in questo modo vedrete che la circolazione migliora e nel giro di un paio di minuti cominciate a respirare. Professor Di Pietro, perché mi scrive un ascoltatore, cosa c'entra la matita? La matita ha il suo perché, come si dice. Certo, perché? Il suo perché. La matita permette alla cervicale di rilassarsi un po', ecco. Perché se abbiamo delle contrazioni dovute al viso, perché siamo arrabbiati, siamo concentrati, siamo mille problemi, le paghiamo sul collo e peggioriamo l'effetto dell'aria condizionata sul collo. Quindi, mettere la matita rallenta, è un bite molto veloce, certo, che permette di rilassare velocemente il collo. Ed è per questo. Ed è questo, quindi matita, due, i polpastrelli, cervicale, le andiamo a massaggiare in senso orario dove sentiamo dolore. Allora, sì, ci scrive un fisioterapista che nei mesi estivi, per tutti, grazie al grande contributo dell'aria condizionata, aumento decisamente il fatturato perché devo trattare molti torcicolle, problematiche varie legate al raffreddamento della muscolatura, ci chiede Francesco. Come vedere allora, il bicchiere mezzo pieno dei problemi, hai visto? Grazie, sì, al professor Di Pietro. Volevamo parlare di zanzare, ma ne parleremo in una prossima, sì, trasmissione. Grazie professore, grazie, a presto. Grazie a voi, a buona presto, giornata. Mentre al dottor Mocci, lei ha accennato, attenzione alla disidratazione, e quindi agli ascoltatori diciamo attenzione sì ai muscoli, per cui evitate magari di tenere l'aria condizionata accesa di notte che vi spara sul letto, perché questo è un momento molto delicato per l'apparato muscolo scheletrico la notte, quindi è la ragione per cui ci alziamo magari tutti rotti. Ma dottor Mocci, in chiusura vogliamo dare anche delle indicazioni per i nostri ascoltatori, raccomandando attenzione alle mucose, attenzione anche se lavorate in un ufficio e siete tante ore davanti al PC, dottore. Allora, intanto bere bevande possibilmente non fredde, perché bevendo idratiamo e quindi miglioriamo un pochettino, ne guadagno un po' tutto, qualsiasi idratazione, ma soprattutto perché non tenerla durante la notte? Perché durante la notte, durante il sonno, la temperatura corporea si abbassa. E che cosa succede? I muscoli si rilassano ancora di più e si riduce l'attività secretiva, cioè le secrezioni si riducono, a parte tranne quella renale e purtroppo quella sudorifera. Certo. Quelle continuano. Se noi durante la notte teniamo il condizionatore molto basso, non facciamo altro che provocare dei danni proprio a causa di questa situazione. Quindi durante la notte la temperatura deve essere molto molto più alta. Poi per quanto riguarda la secchezza degli occhi, potremmo anche utilizzare, per chi ha questi problemi, delle lacrime artificiali, perché fanno benissimo, muovere gli occhi ogni tanto. Ecco, ammicchiamo, perché sai che ci dimentichiamo, non facilità, facciamo facilità, l'ammiccamento. Facilita l'idratazione, quindi la cornea si secca meno. E poi le raccomandazioni che facciamo sempre, ovviamente, di non prendere aria diretta, soprattutto aria diretta in macchina. Attenzione, non mandate l'aria sull'addome, sulla pancia, perché spesso si verificano blocchi digestivi. Ecco, poi andate di nuovo dal dottor Moccio, mal di pancia, lui si lamenta, cosa ha fatto? L'aria condizionata, ma non ascolta Cuore Denari. Egidio invece ascolta e vuole dire la sua. Buongiorno. Anche lui. Egidio. Sì, buongiorno. Sì, pronto. Da Prato. Buongiorno. Da Prato. Io volevo dire questo. Mm. In macchina uno se la può regolare, poi se uno è imbecille e non riesce a regolarsela bene, meglio per lui. Certo. Stesso discorso vale per la notte. Certo, ma però quando io vado in un centro commerciale che fuori c'è 34 gradi e lì ce n'è 18, perché la differenza a volte è questa, sì, 20 gradi, io tutte le volte mi becco, senti, mi è andata via la voce, mal di gola, Ma dal collo. Vabbè, dai, una sciarpina di cotone, lo so, Gidio, purtroppo... Non si riesce, Gidio. Infatti è proprio il primo aspetto che ha sottolineato il dottor Mocci. Gli sbalzi di temperatura sono una lama. E quindi c'è chi e poi... ci va bene, perché negli Stati Uniti veramente è improponibile entrare in qualunque negozio, bar, bisogna locale, tenersi ristorante. In borsa. Banalmente valgono i consigli di buon senso. La sciarpina, come suggeriva il... il professor Di Pietro, dottor Mocci, io mi porto sempre il maglioncino, però in qualche modo bisogna difendersi. Certo, ma volevo richiamare l'attenzione anche su un altro aspetto. È vero sì che passare dal caldo al freddo dà fastidio, ma è altrettanto vero che dal freddo al caldo dà ugualmente fastidio. Quando entriamo in macchina, per esempio, che è sotto il sole in questi giorni da 4-5 ore, no, abbiamo un forno, e allora lì bisogna stare attenti perché anche quello fa male. Allora, un po' di attenzione, mettere per esempio, se si ha a disposizione il parasole riflettente, aiuta molto, e lasciare i vetri leggermente aperti, correndo magari il rischio che rubino la macchina, però però poi il caldo il caldone se lo beccano loro. Lei hai fatto tutte queste cose qua oggi che mi porti? Allora, tu sai che io la macchina ce l'ho nel nostro parcheggio interno, quindi la macchina è già fresca al punto giusto. Sarò né troppo regina. Calda né troppo fresca, per cui va benissimo così. Io sono fortunata, non la devo lasciare fuori sotto il sole. Dottor Mocci, ultime raccomandazioni? Raccomandazioni, sempre le vie di mezzo. Dai, le vie di mezzo. Ricordo, il buon senso. I grigini. Bere molto. Bere molto. Ricordatevi anche quando siete al fresco, all'aria con l'aria condizionata, bottiglietta, alè. Grazie dottor Mocci per essere stato con noi. Grazie a voi. In chiusura vogliamo ricordarvi, perché l'avete scritto, ci avete chiesto, che sulla pagina di Cuore Denari abbiamo messo i consigli del dottor Massimo Gualerzi, che è stato ieri ospite qua in questo studio. Ma ci ha fatto anche una piccola appendice. E ha fatto un'appendicina. Perché? Allora, abbiamo fatto tre profili. Se avete siete un po' forma pera, quindi un po' il grasso distribuito nella parte bassa del nostro corpo, forma mela, o se siete sportivi, trovate delle indicazioni mirate per voi sull'alimentazione da seguire e sull'attività fisica da praticare. Esatto, perché non si può fare si o l'una o l'altra. Con o senza aria condizionata, questo decidetelo voi. Noi vi salutiamo perché andiamo a fare le valigie. Andiamo a fare le valigie, andiamo a fare le scalette per le puntate che seguirete domani e dopodomani da Montepulciano, Festival Luci sul Lavoro, parleremo di garanzia giovani, dell'attività della nuova Agenzia Nazionale del Lavoro LAMPA, la Nicoletta farà tante cose dedicate proprio anche a... cos'è che stai programmando? Tu allora, ci siamo attaccati un po' al tema luci. Brava, e allora faremo luci sulla pelle e luci sugli occhi. Guardate, tantissimi argomenti anche se siamo in trasferta, per cui venite con noi, intanto buona giornata a tutti, a domani.